Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simone Soranna di A Wonder Pictures per presentare il film Everything, Everywhere, All at Once di Dan Kwan e Daniel Schneinert al cinema da giovedì 6 ottobre 2022. Ben trovato. Grazie mille, è un piacere, grazie per l'invito. Come si potrebbe raccontare in breve? Questa è un'ottima domanda e molto complicata a cui rispondere, perché la trama è effettivamente un po' contorta, ma nel senso positivo del termine. Dunque, c'è una donna di mezza età che sta attraversando una crisi, ha problemi di lavoro, ha problemi di relazione con sua figlia che è adolescente e soprattutto ha un matrimonio che insomma non è proprio tutto rose e fiori. Ecco che a un certo punto però inizierà a fare i conti con una problematica ancora più grande, ancora più imponente, ovvero il cosiddetto multiverso. Qua mi fermo perché poi lascio scoprire agli spettatori e alle spettatrici il resto della trama, ma è davvero molto avvincente. Come nasce il rapporto di A Wonder Pictures con questo film? Questa è una storia molto interessante, nel senso che effettivamente sono tanti mesi che stiamo lavorando per cercare di portare in Italia questa pellicola. La casa di produzione americana, statunitense, che ha realizzato il film è la A24, molto accreditata nel circuito, soprattutto più indipendente. Dopo una serie di fortunati eventi, dopo un ampio corteggiamento, ecco, da parte nostra, ce l'abbiamo fatta iniziare a collaborare con loro e siamo molto contenti perché ci stiamo trovando divinamente, tant'è che anche un prossimo film che è stato presentato a Venezia, arriverà poi nel 2023 nelle sale italiane, lo abbiamo portato in Italia proprio con loro, si chiama The Whale, ma magari avremo modo di parlarne. Comunque ecco, ci piace sposare la loro passione, il loro entusiasmo e la loro dinamica più indipendente rispetto alle grandi major. Cosa ti ha convinto personalmente di questo lavoro? Mi ha fatto tornare bambino. Uno dei coprotagonisti è anche l'attore Ki-Hee Kwan, che magari molti non sanno chi sia, però basta dire i Goonies, basta dire Indiana Jones 2, ecco, era il ragazzino che faceva da comprimario a Harrison Ford, era Data dei Goonies, quindi sono tornato a respirare quel clima, sono tornato a respirare quel tipo di cinema con cui sono cresciuto, mi ha fatto molto piacere ritrovarlo sul grande schermo, ma al di là della sua presenza è proprio un film divertente, appassionante e che nutre una grande stima nei confronti del cinema dall'A alla Z, per cui è veramente qualcosa per noi appassionati e amanti di quest'arte, qualcosa di unico. Di questi due registi cos'altro sappiamo? Dunque, sono due registi molto giovani, hanno iniziato nel mondo dei videoclip musicali, si sono subito messi in vetrina, messi in primo piano perché i loro video sono davvero interessanti e innovativi. Questo è il loro secondo lungometraggio, il precedente è diventato un piccolo cult, si chiamava Swiss Army Man ed era una storia veramente funambolica con protagonisti Paul Dano e Larry Potter, Daniel Radcliffe. Ha avuto una sua circuitazione minore rispetto a questo, ma molto consolidata per quanto riguarda l'accoglienza critica, per quanto riguarda lo tocco duro del pubblico più cinefilo, e poi sono arrivati per l'appunto a girare invece Everything Everywhere All at Once, che è diventato un vero e proprio caso negli Stati Uniti d'America perché ha sfondato il muro dei 100 milioni di dollari incassati al botteghino interno, quindi quello nazionale, ed è il primo film della A24, la casa produttrice, per quanto riguarda una sorta di classifica di rendicontazione finale, quindi il loro film più ricco al botteghino. Ecco, a questo proposito, che tipo di circuitazione ha avuto tra festival e sale internazionali? È una storia davvero appassionante perché ha iniziato in 4 sale, ce lo raccontavano proprio poco fa, tra l'altro abbiamo avuto modo e il piacere di ospitarli qui in Italia e ci dicevano che all'uscita del film il primo giorno il film era distribuito in 4 cinema su tutto il suolo statunitense. Poi grazie al passaparola, poco alla volta le sale sono diventate 10, 20, 30, 100, 200 e poi il film ha sfondato, come vi dicevo, il muro dei 100 milioni che per essere un prodotto indipendente è un traguardo molto ambito e molto difficile da raggiungere. Quindi noi ci auguriamo davvero che lo stesso percorso possa farlo anche qua in Italia, in realtà lo stiamo spingendo in maniera molto massiccia, in maniera molto forte perché andiamo subito fuori con 250 schermi sul suolo nazionale, quindi è un ragionamento, diciamo così, commerciale leggermente diverso, però siamo molto fiduciosi che il passaparola possa premiarlo tanto quanto è stato premiato negli Stati Uniti. Tra l'altro ti ricordo anche che anche in Francia Francia, dove il pubblico è decisamente molto attento al cinema, dove c'è una cultura cinematografica differente, il film è stato campione di incassi, quindi siamo ottimisti, dai. Diamo tutti i riferimenti internet per le sale? Basta andare sul sito iwonderpictures.it e là ci sono tutti quanti i riferimenti su dove trovare il film, la scheda, la sinossi, i vari trailer, il materiale, insomma tutto quello che cercate sui nostri canali social, appunto sul nostro sito, è a vostra disposizione. E poi chiaramente il vostro cinema di fiducia, secondo me, proietterà uno o più spettacoli di questo titolo, perché appunto la distribuzione sta decisamente capillare, quindi si cade abbastanza in piedi. Everything, Everywhere, All at Once di Dan Kwan e Daniel Schneinert al cinema da giovedì 6 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di I Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto! Grazie a voi, alla prossima, buona giornata! Con Daniele Ceccarini, regista del documentario Citto al cinema da lunedì 10 ottobre 2022, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è. È un documentario dedicato a Citto Maselli, che è un regista, un intellettuale molto importante che ha attraversato tutto il Novecento e sta partecipando anche attivamente alla vita sociale e politica, quindi una figura molto importante e complessa da raccontare. È stata una grande sfida. Com'è nato tutto? Innanzitutto dalla grande stima che io nei confronti di Citto Maselli come regista e come intellettuale, e poi ho deciso di raccontare questa figura perché credo che sia molto importante oggi, proprio in un momento storico dove tutto si appiattisce, dove perde l'identità, mancano riferimenti anche ideologici. La figura di Citto è una figura importante, lui crede ancora oggi che sia importante lottare per costruire un mondo migliore, quindi questo, quando l'ho sentito anche dalle sue stesse parole, mi ha molto emozionato, quindi ho deciso che era importante raccontarlo e spero di esserci riuscito. Come hai deciso di strutturarlo? È stato un lungo viaggio tra interviste di persone, attori, registi, artisti, intellettuali che lo hanno conosciuto, suoi amici o persone che hanno collaborato con lui. Infatti ci sono testimonianze molto importanti da registi come Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, Ken Loach, o attori come Valeria Golino, e quindi attraverso contributi anche di intellettuali come Dacia Maraino, Furio Colombo, insomma sono tantissimi. Io ho cercato di raccontare attraverso le loro testimonianze e anche quella principale di Citto Maselli, quello che è la sua figura, e quindi è un lungo racconto. Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici? Ho cercato di scegliere le persone comunque anche che potessero raccontarlo al meglio, persone che comunque lo conoscono, l'hanno conosciuto sia a livello professionale che come anche uomo, essendo stato sempre molto attivo anche nella vita sociale e politica, e quindi ho cercato di scegliere le persone che meglio potessero raccontarlo. Come le hai articolate nel documentario, le interviste con estratti da film, immagini di repertorio? Non è stato facile perché le interviste sono state tante e il materiale era ricchissimo, e quindi ho cercato di selezionare in modo da poter anche comunicare quella che è stata l'emozione che io ho ricevuto da tutti questi racconti. È stato anche un grande privilegio poter intervistare tutti questi personaggi così importanti, compreso anche lo stesso Citto. Le interviste a Citto sono state varie e numerose. Mi ha colpito da subito la grande umiltà e anche l'ironia col quale lui raccontava la sua vita, i suoi episodi anche molto importanti, proprio solo come secondo me i grandi sanno fare, con grande umiltà, e questo ha colpito da subito. Io ho cercato in qualche modo di riprodurre quello che ho sentito, quello che mi ha emozionato, quello che mi ha comunicato tutti questi incontri, raccontarlo al meglio. Che impressioni hai ricavato nel mettere insieme questo lavoro? È stato un lavoro molto impegnativo perché appunto la figura di Citto Maselli, una figura molto complessa, articolata, che ha attraversato tutto il Novecento, anche caratterizzandolo attivamente. E una delle cose che mi hanno più emozionato è stato appunto sentire dalle sue stesse parole come Citto creda ancora nella possibilità di costruire un mondo migliore. Questo mi ha dato molto entusiasmo, proprio perché è un periodo storico molto complicato, dove la gente comunque si crede meno in un mondo migliore anche a livello collettivo, e quindi questo mi ha dato molto entusiasmo nella sua vita artistica, ma anche politica, l'impegno sociale. Cito, ha sempre comunque creduto di poter dar voce al mondo degli sfruttati, parlando sempre anche al presente in modo molto concreto, e credo che questo sia un messaggio che il documentario porti con sé, anche la forza di credere che si possa fare un mondo migliore, che si possa creare, che ci si possa ancora unire insieme per cambiare le cose. Questo mi ha dato a me personalmente tanto entusiasmo, tanta forza, e credo che il messaggio che il documentario porti con sé sia questo. Che tipo di uscita sarà? Uscirà nel cinema dal 10 ottobre e poi seguiranno una serie di incontri eventi dove sarò presente anch'io e dove anche alcuni protagonisti del film potranno, spero, essere presenti. Non sono ancora ufficiali le sale, sicuramente c'è quella del 12 ottobre a Roma al Cinema dei Piccoli Villa Borghese. Diamo i riferimenti internet per chi volesse saperne di più? Tutte le informazioni sono sulle pagine web del Cineclub Internazionale Distribuzione, che è la distribuzione che si occupa appunto di distribuire film nei cinema di Paolo Minuta. Il documentario Citto al cinema da lunedì 10 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Ceccarini. A presto! Grazie mille, a presto. Un caro saluto a tutti. Con il regista Pupi Avati per presentare il suo film Dante al cinema da giovedì 29 settembre 2022. Ben trovato. Ben trovata lei. Come lo presenterebbe il suo film? Come un grande risarcimento per un più grande poeta della storia della letteratura e per la prima e più straordinaria storia d'amore che la letteratura abbia mai raccontato. Come era nato il progetto? Il progetto è nato da una sorta di recipiscenza che ho vissuto a un certo punto della mia vita, quando mi sono reso conto che avevo scelto di fare il cinema senza essere sufficientemente acculturato per poter utilizzare uno strumento che invece avrebbe potuto essere impiegato anche a livello culturale, come già facevano i grandi registi di quel tempo, parlo degli anni 60. E quindi, per essere all'altezza del mezzo, io, malgrado avessi già superato la trentina, ho deciso di affrontare tutto quello che non sapevo e di cominciare a studiare e a leggere totalmente da autodidatta, ed è l'approccio migliore che suggerisco ai più, a tutti quelli che magari anagraficamente si considerano mai in ritardo. Invece non si è mai troppo tardi, come dicevo nella trasmissione, aveva per titolo della trasmissione celeberrima della TV. Per poter studiare, acculturarsi e apprezzare quanto sia meraviglioso scoprire le cose che non sai. Come ha pensato di mettere in scena questo rapporto tra letteratura e cinema? Umanizzando al massimo questo protagonista che è Dante Alighieri, attraverso quell'operazione che già fece Boccaccio nel 1350, 29 anni dopo la morte di Dante. Lui si ritrovò a Ravenna, dove era sopravvissuta la figlia come monaca, per risarcirla con 10 fiorini d'oro per il tanto male che i fiorentini avevano fatto a suo padre, e ne approfittò per raccogliere una infinità di informazioni sulla vita del padre, sufficienti a scrivere la prima biografia che abbiamo di Dante Alighieri, il Trattatello in laude di Dante Alighieri. E ancora oggi i dantisti si basano su molte di quelle informazioni che, se non l'avessimo avute, se non avessimo avuto Boccaccio, noi di Dante Alighieri, del quale sappiamo pochissimo, sapremo ancora meno. Quindi il mio approccio è venuto attraverso questa biografia di Boccaccio, ma soprattutto il diario giovanile che Dante ci ha lasciato di se stesso, un prosimetro, che vuol dire insieme di prosa e poesia, che ha per titolo La vita nuova e che racconta il suo rapporto con Beatrice, questa bambina che ha incontrato a 9 anni e lui ne aveva 9. E che per la prima volta, dopo un corteggiamento di 9 anni, è stato salutato da lei, che poi lei ha sposato un altro e poi purtroppo è morta. E dopo la morte di lei, lui ha giurato a se stesso che avrebbe studiato e si sarebbe preparato al punto di scrivere quello che non fu mai scritto per nessuna donna. E ci è riuscito, perché ha scritto questo capolavoro che è la commedia, che è un testo sacro. Lui stesso lo definisce un testo a cui ha posto mano cielo e terra, e che si conclude con questa visione di Dio che lui sintetizza nell'amore, amor che muove il sole e le altre stelle, e che coincide con la sua morte. Quindi la sua opera praticamente dà un senso a tutta la sua vita. Qual è l'eredità più viva di Dante oggi? Io non credo che sia il suo atteggiamento politico. Certamente sul piano filologico della letteratura, se non ci fosse stato Dante, se non ci fossero state le altre due corone che sono Boccaccio e Petrarca, probabilmente il volgare col quale noi in questo momento stiamo interloquendo non si sarebbe imposto in quel momento, magari in altri modi, in altre forme. Ma io credo che la grande eredità di Dante è la sua dismisura poetica, la sua capacità di far sì che i suoi versi, i suoi sonetti, dopo 700 anni, la sua opera sia ancora di una freschezza, di una capacità di emozionarci e di commuoverci come se fosse stata scritta oggi, ieri sera. Com'è stata la scelta del cast? Castellitto è stato scelto per interpretare Boccaccio per la sua capacità, per il suo sguardo. Io credo che gli attori di questo film siano stati scelti per i loro sguardi. Capacità di Castellitto di guardare con grande tenerezza. Io avevo bisogno di un Boccaccio innamorato di Dante, perché nessun poeta amò così tanto un altro poeta come Boccaccio amò Dante. Ho avuto questa fortuna di trovare in Alessandro Sperduti, ma soprattutto in Carlotta Gamba, una giovane Beatrice con uno sguardo così intenso, così profondo, così consapevole, così misterioso, per cui quando giravo quelle situazioni in cui lei guardava Dante e Dante guardava lei, io veramente molto spesso mi sono trovato a non dire stop, e tutta la troupe mi guardava interdetta perché si chiedeva quanto sarebbe durato quel primo piano, però veramente ero totalmente ipnotizzato da quello sguardo. E la scelta di un titolo così secco? Mi sembrava il modo più corretto, meno artificiale, meno strategico, il più onesto. Io ho dedicato 25 anni della mia vita a chi? A Dante. Ecco, il film si chiama Dante. Non ha la necessità di essere corredato da aggettivi o da citazioni poetiche. Dante, perché tutta la storia del film ruota attorno a Dante, a questo ragazzo. Perché io racconto un Dante anche adulto, anche anziano, quando muore, tuttavia, che ha tenuto in vita dentro di sé il ragazzo che è stato. Il film Dante al cinema da giovedì 29 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Pupi Avati. A presto! A presto, grazie. Con Federico Pedroni della Settimana Internazionale della Critica di Venezia per presentare il film La Notte del 12 di Dominic Moll al cinema da giovedì 29 settembre 2022, distribuito da Teodora Film. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Raccontiamolo brevemente, Federico. Per non fare molto spoiler, perché in realtà è un giallo, quindi diciamo il meno possibile, ma il film si ambienta in una piccola cittadina francese che è Grenoble, dove c'è un nuovo capo della polizia giudiziaria che si trova subito davanti a un caso dell'uccisione di una giovane ragazza a cui viene dato fuoco dopo una festa e che viene trovata carbonizzata appunto la mattina dalla polizia giudiziaria. E come Moll già ci presenta dalla scritta che precede l'inizio del film, già sappiamo che questo è uno dei tanti casi destinati a essere risolti. Quindi è un giallo a suo modo, perché è un giallo di cui già sappiamo che non ci sarà la soluzione. Però quello che a Moll interessa è raccontare appunto come l'omicidio di una giovane donna in una piccola comunità nasconda in realtà una serie di segreti, di malesseri, di giudizi, di pregiudizi, e insomma è un film che attraverso il noir racconta davvero predominio violento, brutale, maschile nei confronti appunto di una giovane abitante di questa piccola comunità. Quindi Philip Moore, che è stato presentato a Cannes in una sezione collaterale, quindi se ne è parlato abbastanza poco e che arriva adesso distribuito da Teodora, è un film che usa il giallo per raccontare una tematica in questo momento molto calda, che è quella appunto della violenza sulle donne. Però lo fa in una maniera particolarmente intelligente, particolarmente sottile, particolarmente sofferta. È un film in cui il dolore dei parenti, il dolore degli amici della vittima si somma al dolore degli inquirenti che si trovano davanti a un muro di omertà, di supponenza, appunto di pregiudizio nei confronti appunto di una giovane donna che da vittima viene quasi colpevolizzata anche da morta. È un film che ha avuto un clamoroso successo di pubblico in Francia, la Francia diciamo che ha problemi diversi dai nostri per quanto riguarda il pubblico in sala, ma è un successo che in realtà si deve proprio alla sciuttezza, alla consapevolezza, all'intelligenza di un film che in maniera molto compatta e molto pulita racconta una storia forte, aggrappandosi però anche al genere in maniera molto, ripeto, intelligente, perché la grande impressione che ho avuto io vedendo il film è stato che il regista, che è un autore tedesco che lavora da molto tempo in Francia, che non è un autore conosciutissimo all'estero, ha avuto un passaggio una quindicina d'anni fa in concorso a Cannes con un film che si chiamava Lemming, ma non è uno dei grandi autori riconosciuti, ma è un regista che si mette veramente al servizio della storia che sta raccontando. Questo l'ho trovato molto sottile, ecco. Mi ha fatto anche parecchia impressione l'indifferenza di alcuni dei protagonisti che poi invece erano direttamente coinvolti in questa vicenda. Sì, assolutamente. Il film inizia con questa giovane ragazza che esce da una festa e sta tornando a casa e che appunto viene aggredita e a cui viene dato fuoco in maniera radicalmente violenta, e la comunità reagisce appunto scoprendo altarini, difendendo ognuno il proprio orticello, essendo preoccupati di non poter cadere tra i sospetti. C'è una specie di familismo molto gretto, c'è un maschilismo ostentato, c'è una violenza sotterranea che però appunto non si traduce mai in una vera empatia nei confronti della vittima e di chi soffre per questo omicidio. E questa è la cosa che fa soffrire e fa anche impazzire i due protagonisti principali, che appunto sono il capo della polizia giudiziaria e il suo vice, che comprimono la loro rabbia. Uno a un certo punto botterà anche, ma sembrano appunto assumere su di loro quella sofferenza che non sentono intorno, quella solidarietà che non sentono intorno. È un film che appunto racconta anche una spaventosa indifferenza della comunità nei confronti della tragedia di un singolo donna, ovviamente, come parte fragile e debole, sempre sottoposta a vessazioni e a violenze, o sempre a rischio di vessazioni e violenze, non solo in una comunità come quella di Grenoble, ma in moltissimi luoghi che viviamo quotidianamente. In una confezione godibilissima, tra l'altro. Assolutamente, quello che notavo è che appunto, pur sapendo sin dalla prima immagine del film che non sarà un giallo alla Agatha Christie, non sarà un whodunit, non avremo neanche il piacere della scoperta del colpevole, il film cavalca benissimo le regole del genere ed è tesissimo, fatto di interrogatori asciutti, secchi, fatto di tutta una serie di sospetti che si susseguono con una puntualità nella descrizione dei personaggi, soprattutto in quelli negativi, anche attraverso poche scene, poche battute di dialogo. È un film che appunto riesce a inchiodare proprio grazie a un utilizzo molto molto consapevole delle meccaniche, non dimenticandosi poi mai qual è la vera radice del racconto, qual è il nocciolo della questione. Il film La notte del 12 di Dominic Moll al cinema da giovedì 29 settembre 2022, distribuito da Teodora Film. Un saluto e un ringraziamento a Federico Pedroni della Settimana Internazionale della Critica. Alla prossima, Fede. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Con Stefano Pierpaoli di Film Studio per presentare la nuova stagione e anche Notti d'Oro a Roma, Teatro Tordinona, dal 5 al 7 ottobre 2022. Ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Raccontiamo subito di questa nuova avventura della riapertura di Film Studio. Sì, è una rinascita, soprattutto recuperando lo spirito, l'identità che rappresenta, ha rappresentato il Film Studio, grazie grazie al connubio che abbiamo creato con il Teatro Tordinona, che è il teatro più antico di Roma, con Renato Giordano e Ulisse Benedetti, figure storiche della cultura e dell'arte a Roma, siamo riusciti a creare questo percorso e questa proposta che vuole inserirsi a Roma in un momento in cui credo si stia manifestando in maniera abbastanza chiara il crollo culturale di questa città, l'assenza di riferimenti di un certo tipo che offrano una visione un po' fuori dal coro e che soprattutto si sottraggano al populismo culturale degli ultimi decenni. Come si realizzerà questo connubio con il Teatro Tordinona? Noi abbiamo preparato un progetto fatto di proposte artistiche molto eterogenee tra loro, cinema, teatro, performing art e incontri con una serie di personaggi di calibro che provengono più che altro dal teatro e dalla filosofia. Le nostre proposte andranno avanti da adesso, che sta iniziando con le Notti d'Oro dei César francesi, fino a maggio. E noi utilizzeremo molto un tipo di proposta non didascalica. Se passeremo da una cosa all'altra, cercheremo di non essere inquadrati in quell'eventismo romano in cui si vende il prodotto di quello che fai senza mettere niente, e rappresentando evidentemente un'area critica, proveremo, riportando quello spirito e quelle atmosfere che abbiamo sempre cercato di offrire a Roma, riportando il rapporto con il pubblico a un livello di protagonismo e di vera cooperazione. Noi collaboreremo con gli amici che ci verranno a trovare e parteciperanno ai nostri appuntamenti. Raccontiamo a questo punto la rassegna Notti d'Oro. Sì, noi siamo partiti con le Notti d'Oro dei César, che è la rassegna più importante al mondo di corti, perché ci sono i 34 corti premiati dalle più prestigiose accademie cinematografiche mondiali, anche l'Oscar, il César francese. Per l'altissima qualità che abbiamo inaugurato la rassegna c'è stata una risposta di pubblico straordinaria, perché avere una sala tutta esaurita di questi tempi con dei corti, dei cortometraggi, è una bellissima esperienza. E noi abbiamo questo rapporto forte sia con l'Accademia dei César che con l'Accademia del Cinema Italiano. Stiamo proponendo questa rassegna perché è una grande opportunità di promozione del cinema. Ci sono 34 corti in 3 giornate, mercoledì 5, poi giovedì 6 e venerdì 7, in 2 blocchi, uno alle 18:30 e uno alle 21. Nella sala Strasberg del Teatro Tordinona l'ingresso è gratuito, soltanto la tessera, l'Arche Card è obbligatoria, insomma è un piccolo contributo. E noi veramente con questo primo appuntamento crediamo già di dare un segnale abbastanza significativo. Ci dai riferimenti internet per saperne di più? Il nostro sito è romafilmstudio.it, in cui viene presentato questa prima rassegna e poi tutto il programma, che potrà subire alcune variazioni ma già è stato definito. Noi siamo a disposizione di tutti, se ci scrivono rispondiamo in 5 minuti, abbiamo una pagina Facebook che è Cinema Film Studio e il profilo Instagram che è Film Studio Cult. Il progetto si chiama Prospettiva Archè, mi piace spiegarlo proprio in 2 parole, perché noi abbiamo bisogno in questo periodo più che altro di un archè, di un inizio, e di un inizio però che crei prospettive, perché noi viviamo in una società molto schiacciata sul presente, la nostra offerta culturale è molto schiacciata anch'essa sul presente. Invece noi dobbiamo creare delle strade che vadano avanti, che offrano delle visioni più ampie, soprattutto più partecipative. E da questo punto di vista, proprio considerando il tempo che stiamo vivendo, perché vogliamo essere molto nella contemporaneità, noi adesso offriamo degli abbonamenti, primo del quale l'abbonamento che comprende tutti gli appuntamenti che faremo, a 80 euro. Quindi con 2 euro appuntamento si può venire a vedere teatro, cinema, incontri. E questo è proprio perché vogliamo essere vicini a tutti e condividere realmente con delle azioni concrete il desiderio di riportare a Roma un luogo di atmosfere, ma anche di ragionamento e di critica. Il nuovo inizio di Film Studio e la rassegna Le Notti d'Oro a Roma, Teatro Tordinona, dal 5 al 7 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pierpaoli. A presto! Grazie! grazie, a presto e vi aspettiamo. Ciao Federico. Con Mariangela Matarozzo, direttrice artistica della quarta edizione del Festival Internazionale Virtual Reality Experience a Milano, Bologna, Roma, Potenza e Palermo dal 6 al 9 ottobre 2022. Ben trovata. Grazie, grazie per avermi invitato, che hai dato la possibilità di poter presentare e raccontare il mio festival. Grazie Federico. Ce ne parli? È un festival che si distende sul territorio nazionale, quindi partendo da Milano, dove il 6 di ottobre avremo l'opening ufficiale presso il MIT Digital Cultural Center, luogo a mio parere evocato a Milano per accogliere appunto un festival, considerando che il MIT è il punto di riferimento per quanto riguarda le espressioni artistiche di natura digitale essenzialmente, quindi trovato accoglienza proprio già dallo scorso anno in questo prestigioso luogo. Si distende poi in altre quattro città, torna a Roma, dove conferma la presenza per il quarto anno consecutivo negli spazi della Pelanda Mattatoio di Roma, e dove ospiteremo alla Galleria delle Vasche una scultrice americana che presenterà 7 appunto sculture digitali con in realtà aumentata. Possiamo dar vita alle sculture di questa artista di calibro internazionale che si chiama Aurea Harvey. Trovate tutte le informazioni comunque sul sito www.fest.com. Abbiamo la novità anche di Bologna, il multisala Odeon di Bologna, che accoglie una selezione delle opere in concorso, oltre a un focus specifico dedicato alla danza immersiva. Si aggiunge quest'anno anche la Biblioteca Nazionale di Palermo con la collaborazione di Noeltan, e si conferma Palermo come sede, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, il Cresi Plus. Quindi è un festival diffuso che dà la possibilità alle opere degli artisti selezionati di poter essere conosciuti in maniera più diffusa, per l'appunto, quindi più location. Quest'anno abbiamo voluto dedicare anche un'attenzione particolare agli artisti italiani, quindi c'è appunto i talenti italiani che hanno presentato delle opere che abbiamo voluto introdurre all'interno della selezione ufficiale, e continua poi la ricerca a livello internazionale per portare opere che riteniamo possano raccontare opere che toccano alcuni dei temi più importanti del nostro presente, per cui questo è stato sempre il filo conduttore del festival, da andare a individuare opere realizzate appunto con delle tecniche di realtà virtuale, realtà mista, realtà aumentata, che possano raccontarci il nostro presente o che comunque possano portare all'attenzione del grande pubblico temi che attraverso appunto il visore possono essere in qualche modo percepiti con una maggiore anche consapevolezza, perché poi la realtà virtuale e tutte le realtà immersive aiutano le persone a trovarsi in una situazione, in un contesto che altrimenti non sarebbe possibile, quindi non ci sono limiti di tempo e non ci sono limiti di spazio. Ecco, questo è molto semplicemente, possiamo dire, essere la caratteristica del visore, no? Si indossa un visore e ci si trova appunto in uno spazio altro, in un tempo altro, essendo al centro di quell'esperienza che viene raccontata, quindi si crea anche un'empatia con la situazione che si sta vivendo, con i personaggi che vengono raccontati. Questo molto molto semplicemente, per cui penso che possa essere assolutamente stimolante poter vivere queste realtà. E poi abbiamo la curiosità e la partecipazione, abbiamo sempre constatato, di un pubblico trasversale che va dagli addetti fino ai più giovani, fino alle persone più grandi, che comunque hanno questo approccio anche di meraviglia, no? Rispetto all'esperienza vissuta. Ecco, diciamo che la meraviglia è quello che caratterizza l'impressione soprattutto di chi per la prima volta indossa il visore, e questo penso che sia qualcosa di appunto di molto bello e da portare al grande grande pubblico. E l'altra cosa che tengo a sottolineare è che l'ingresso è gratuito in tutte le sedi del festival, e quindi questo consente appunto che ci sia un'ampia partecipazione all'evento, al festival. Cinque città per quanti eventi nel complesso? Cinque eventi, se vogliamo considerare i quattro giorni del festival come un evento, quindi a Milano, che è la città che ospita tutta la selezione ufficiale, tutta la competition, fino appunto alla danza immersiva a Bologna, alle sculture digitali a Roma e una selezione di VR film a Potenza e a Palermo. Quindi abbiamo voluto anche caratterizzare, rispetto alle specificità e alla volontà di far sì che ciascuna delle location possa ospitare qualcosa di più coerente con la location stessa, e anche una diversificazione, fermo restando ovviamente alla selezione delle arti, le abbiamo portate nelle cinque città, quindi facendo sì che ognuna è caratterizzata proprio da una specifica parte del programma del festival. Ci lasci tutti i riferimenti internet per il programma? Noi abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook, ma siamo soprattutto sul nostro sito ufficiale, dove è possibile trovare orari, modalità di partecipazione, ma sopra modalità, l'abbiamo detto poc'anzi, è una modalità libera, quindi ingresso libero. Troviamo tutte le sedi, il programma, il catalogo ufficiale, troviamo il trailer. Quindi ripeto, www.vrefest.com. Quarta edizione del Festival Virtual Reality Experience Milano-Bologna-Roma-Potenza-Palermo dal 6 al 9 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Mariangela Matarozzo. A presto! Grazie, grazie mille, vi aspetto numerosi. Grazie, grazie. Con Jay Weisberg, direttore artistico della 41esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 1 all'8 ottobre 2022. Ben trovato. Grazie, grazie mille, buongiorno. Descriviamolo per chi non lo conoscesse. Quest'anno abbiamo il nostro 41esimo edizione e le Giornate del Cinema Muto è il festival del film d'archivio nel periodo muto più grande nel mondo. Abbiamo un pubblico internazionale, infatti più o meno, se non mi sbaglio, una cifra tipo 73% del pubblico sono stranieri, che arrivano da tutte le parti del mondo. Infatti stamattina ho incontrato un collega da Australia. Non era possibile per lui, ovviamente, durante la pandemia, per gli ultimi 3 anni, di venire qui, ma finalmente si può. Quindi sono molto contento che quest'anno almeno c'è la possibilità di accogliere più gente che l'anno scorso, per esempio. Quante saranno le opere presentate in questa edizione? Ogni giorno c'è 5 puntate, e si tira dalle 9 della mattina fino alle 23 nella sera. E come ogni anno abbiamo vari eventi speciali, e cioè le proiezioni, gli spettacoli con musica dell'orchestra. Ogni film c'è sempre musica dal vivo, di solito un pianoforte, qualche volta forse 2 strumenti. Abbiamo 5 puntate più orchestrale. Per esempio, la serata dell'apertura del sabato e sarà The Unknown, lo sconosciuto, un capolavoro di Todd Browning con Lon Chaney e una giovanissima Joan Crawford. Ma anche domenica abbiamo Nanook l'Eschimese con 2 cantanti di gola Inuit e un accompagnamento proprio speciale. Ci sono dei ritrovamenti speciali? Ci sono delle rarità? Ce ne sono tante varietà, per esempio lo sconosciuto che ho già menzionato, questo per tanti anni abbiamo visto il film solo in una versione di 30 minuti, ma è trovato 10 minuti di più nell'archivio di Praga un anno fa, e grazie a un restauro fatto dal George Eastman Museum a Rochester, New York, finalmente c'è la possibilità di vedere il film più o meno completo, che è un'occasione incredibile, abbiamo la prima in assoluta di questa versione. Ma anche, per esempio, nel 1923, durante le eruzioni di Etna in Sicilia, un giovane regista francese che si chiama Jean Epstein, che più tardi diventerà uno dei più grandi registi nel mondo. Lui è arrivato con il suo macchina da presa di filmare l'eruzione, ma per tanti, tanti anni questo film purtroppo è perduto, ma ritrovato meno di un anno fa nell'archivio di Barcellona in una versione completa e anche imbibito, quindi anche questo è prima assoluta. Ma ce ne sono tanti, tanti cortometraggi, lungometraggi. Abbiamo per la serata di chiusura l'ultimo film muto di Alfred Hitchcock, con una nuova partitura scritta da Stephen Horn e con l'orchestra San Marco di Pordenone. Film italiani, ovviamente, anche le commedie, e un'edizione proprio ricco di cose introvabili e belle. Quali sono gli archivi con cui collaborate e con cui c'è scambio di materiale? Tanti, tanti archivi da tutte le parti del mondo. Quest'anno abbiamo tanti film dal Library of Congress a Washington D.C., anche University of California Film Archive, la Cinémathèque Française a Paris, l'archivio slovacco in Bratislava, l'archivio in Slovenia a Ljubljana, British Film Institute, Filmoteca di Catalunya a Barcelona. Questo è solo per citare qualche archivio, ma siamo in una posizione molto fortunata, visto che siamo il festival del cinema molto più grande e più importante. Tutti gli archivi vogliono proiettare i loro film qui. Quali saranno i luoghi del festival? Siamo sempre al Teatro Verdi, che si troverà nel centro di Pordenone. C'è solo uno spettacolo ad ogni ora, nel senso che non abbiamo, per esempio, due teatri, solo quello. Tranne sabato l'8 nella mattina usiamo anche Cinema Zero e abbiamo la nostra preapertura tradizionale a Sicile dal Teatro San Canaro per un film, una commedia americana, Up in Mabel's Room, nella camera di Mabel, di 1926, una commedia brillante. Ci dà tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? www.giornatedelcinemamuto.it. E abbiamo anche una sezione in streaming, quindi ogni giorno durante la settimana, ma due puntate nel weekend, abbiamo un film in streaming, sempre con la musica. 41esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone dal 1 all'8 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. A presto! Grazie, a prestissimo. Buona giornata. Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare le novità del mese del portale. Ciao Paco, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti e tutti, ben trovati. Vi raccontiamo un po' delle novità di OpenDDB, insomma ci sono parecchie novità molto belle e interessanti. La prima riguarda Sarura. Sarura continua il suo tournée nelle sale con i mesi scorsi, il nostro film che abbiamo realizzato in Palestina con gli attivisti di Youth of Sumud, ma la notizia è che Amira, una delle componenti di questo del collettivo di Youth of Sumud, arriverà in Italia e farà una tournée di circa due settimane passando in diverse città con la presentazione del team e la presentazione ovviamente del loro progetto politico. È un'opportunità molto bella, quindi vi consiglio di seguire tutte le informazioni sia su Facebook che sul sito del film. Dopodiché, per quanto riguarda le nuove uscite, segnalo sicuramente il ritorno in catalogo di alcune opere di Silvano Agosti, tra cui Osho, Indira e altre opere chiave della sua produzione, perché abbiamo da qualche settimana chiuso un accordo con l'Istituto Luce, che ha valutato la possibilità di inserire alcune opere del proprio catalogo dentro OpenDDB e quindi dentro anche i meccanismi economici di OpenDDB, col meccanismo a donazione libera. E questa è una bella notizia, non solo per il ritorno di queste opere in catalogo, ma anche perché evidentemente il modello alternativo che noi abbiamo sviluppato non solo funziona, ma può sposare anche opere autoriali come quelle di Silvano e di altri autori prodotti o distribuiti dall'Istituto Luce. Vi segnalo poi Fight or Flight Iraq, che è un reportage mediometraggio del collettivo FADA. Il collettivo FADA è un collettivo di reporter e giornalisti indipendenti molto interessante, nato da alcuni anni in Italia, e questo è un loro lavoro realizzato appunto in Iraq sulla figura degli Human Rights Defender, che appunto è una figura ormai abbastanza conosciuta in giro per le aree di conflitto, e ci ha fatto molto piacere accogliere questa prima opera, perché appunto Quel Tuo Fado è un collettivo che sta facendo in questi anni delle cose estremamente interessanti. Anche il giornalismo e il reportage indipendente ha bisogno di nuove forme, nuove strade, e ci piace molto il modo con cui questo collettivo sta costruendo il proprio percorso. Segnalo inoltre anche invece nella sezione libri l'arrivo della nuova fatica di Elementi Kairos, casa editrice indipendente con cui collaboriamo da tanti anni. È arrivato finalmente in catalogo anche Cadono Tutti i Re del Mondo, per la madre realizzata da Sante, da Alessandro Sante Neo, che ha già pubblicato altri libri anche Kairos che distribuiamo. Un libro molto bello, un libro illustrato che racconta la genesi di alcuni giochi classici, come può essere il calcetto, la fionda, insomma giochi popolari, e racconta anche come spesso questi giochi siano nati da storie che si intrecciano anche con storie di ribellione e storie rivoluzionarie. E tutto questo con l'ausilio da un lato di un racconto fatto attraverso le immagini e i disegni, ma dall'altro anche attraverso una sorta di versione romanzata di queste storie. E ci tenevamo molto ad avere questo libro in catalogo e finalmente è arrivato. Vi segnalo inoltre che è ancora attiva per qualche settimana la campagna di crowdfunding della Cura, Quanto Vale un Corpo, uno dei prossimi film prodotti direttamente da SNK Factory per la regia di Teresa Sala, un documentario on the road alla ricerca della cura, una parola che oggi, anche purtroppo a causa della pandemia, è diventata una parola centrale, ma che in realtà si frantuma in tantissime direzioni, perché vuol dire tante cose in pratica. Non è solo la parte meramente sanitaria, ma riflette anche su tanti altri aspetti. Un lavoro molto bello e credo molto urgente che stiamo appunto producendo e che uscirà l'anno prossimo. Anche di questo trovate tutte le informazioni sul sito dedicato e sulle pagine Facebook, le nostre pagine Facebook, a conoscere meglio il progetto e in caso anche a sostenere la campagna di coproduzione popolare. Paco, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.